freddo e non senza riluttanza, perché l'articolo, chissà perché, mi sta vagamente antipatico, vado a comprarmi una maglietta di lana. O meglio, visto che con gli anni sono diventato autoindulgente, una maglietta in misto lana-cotone. O addirittura una maglietta del tipo a double face, tanto per evitare il contatto di un filato troppo ruvido sulla mia epidermide delicata. La merceria presso la quale mi sono servito per 25 anni ha inevitabilmente chiuso i battenti, vittima del fato che incombe sulla piccola distribuzione. Ma non molta distanza c'è un ampio e lussuoso negozio le cui vetrine ostentano ogni immaginabile ben di Dio in tema di maglieria, e mi ci dirigo a passo spedito. Il tipo dietro al banco non deve essere un commesso, piuttosto il gerente o il padrone a giudicare dall'aria autorevole. Ascolta la mia richiesta, annuisce, mi prende mentalmente le misure, armeggia tra le scatole impilate nella scaffaliera alle sue spalle e mi porge con un cortese sorriso il capo richiesto. Il tessuto è morbido, la taglia giusta, la linea soddisfacente, va bene, lo prendo. E solo in quel momento l'astuto mercante mi spara un prezzo che farebbe barcollare il più prodigo degli scialacquatori, una cifra che sarebbe adeguata forse a un manufatto in purissima alpaca o in cashmere originale mongolo misto a seta grezza cinese. Ma oramai i giochi sono fatti. Io non voglio certo fare la figura di un uomo sordidamente attaccato al denaro, nel senso che a chiedere che se non hanno per caso qualcosa di più economico un po' mi vergogno, per cui pago senza fiatare e ritiro la confezione. Qualcosa del mio atteggiamento però deve avergli comunicato una certa contrarietà, per cui lo sciagurato sente in qualche modo il bisogno di giustificarsi. Sa, mi dice in tono confidenziale, oggi l'intimo va poco, sono poche case a tenerlo, di solito per di più fanno un intimo particolare, con delle caratteristiche tutte sue. E visto che su quest'ultima posio pesi la mia faccia continua ad atteggiarsi a punto interrogativo, specifica, voglio dire un intimo esternabile. Sottintendendo, suppongo, che quello che mi ha venduto lui, al contrario, è un classico esempio di intimo di una volta, di quelli che non si trovano più a cercarli con il lanternino e che quindi, invece di lamentarmi, dovrei essere più che soddisfatto di aver sborsato 48,50 € per una maglietta. Me ne vado col mio pacchetto in mano e con una vaga impressione di essere stato truffato. Ma non posso fare a meno allo stesso tempo di interrogarmi sulla nuovissima categoria mentale che quella specie di tagliagole mi ha prospettato, perché quella di intimo esternabile, lo ammetterete, è un concetto che fa il paio con i classici apprendista esperto o viaggiatore stanziale, e visto che da un punto di vista banalmente grammaticale intimo è superlativo di interno, e se una cosa è interna, molto interna al superlativo, vuol dire che non la posso portare all'esterno, non posso esternarla senza fargli perdere la caratteristica che mi aveva permesso di definirla per tale. E una volta esternato, non ci piove, l'intimo non è più intimo. E il fatto che l'espressione esista e che l'abbia utilizzata sia pure con qualche cautela un signore che nulla mi autorizza a considerare dedito ai giochi di parole o ai paradossi logici è la miglior prova di come la lingua, nella sua implacabile procedere di categorizzazione in categorizzazione, non si lasci irrigidire da alcun impegno semantico. Si vedono in giro cartelli e annunci economici che ricercano apprendisti esperti, e mi ricordo che una volta ce n'ha parlato Felice. Per i viaggiatori sedentari o stanziali che siano si pubblicano fior di riviste e i commessi dei negozi di maglieria offrono senza battere ciglio dell'intimo esternabile. Intendendo per tale, se posso azzardare un'ipotesi, un genere di maglietta che pur destinata normalmente a essere portato sotto la camicia, si può benissimo portare anche senza lei di essa, se solo l'interessato lo voglia e in tal senso si attivi. Eppure le trasformazioni semantiche richiedono sempre, per potersi realizzare, certe condizioni specifiche. Un termine in linea di massima può assumere dei nuovi impegni solo quando, a prescindere dall'etimologia, abbia esaurito o indebolito i precedenti. E in effetti, se ci pensate bene, oggi come oggi la categoria sociologica dell'apprendista ha ben poco a che fare con l'apprendere. e le modalità del viaggiare si sono trasformate in modo di rendere affatto credibile l'ipotesi di farlo in via sedentaria. Quelle di interno e di esterno naturalmente sono categorie che resistono un poco di più, vista la loro indubbia utilità pratica, ma intimo non è più da un pezzo soltanto il superlativo d'interno. La parola, maglieria corsetteria a parte, ha assunto da tempo quella speciale connotazione metaforica che indica un quid che il soggetto considera soltanto suo, una cosa che tutti vogliamo proteggere e celare all'indiscrezione altrui, perché al fatto che gli altri non vi interferiscano annettiamo uno speciale valore. Ed è su questo fronte, forse, che si è aperta la crisi. Nel senso che della nostra intimità, ahimè, ci si occupa sempre meno, e che sempre meno si è disposti a rispettare quella degli altri. Il termine, per un motivo o per l'altro, ha perso valore ed è quindi sempre più suscettibile a nuove valorificazioni, a nuovi utilizzi. Potete cercare una prova, se non ne siete convinti, nelle insegne dei centri di noleggio di videocassette. Lì l'offerta di intimo, che pure talvolta viene esibita, non si riferisce evidentemente alla biancheria. Io non sono mai entrato a controllare, ma azzarderei occhio a croce l'ipotesi che con quella definizione ci si riferisca pudicamente al genere porno, che come è noto in versione soft e hard rappresenta un capitolo importante di quel tipo d'attività. E se è vero che i comportamenti di cui si riferisce in quei video sono indubbiamente di natura intima, nel senso che si tratta o dovrebbe trattarsi di faccende affatto private, è altrettanto vero che in quella sede le si rende pubbliche, che più pubbliche non si può, esternando una cosa che, come la biancheria personale, la consuetudine consigliava di non esternare. E anche questo è il segno di una trasformazione del quadro valori, che puntualmente si riflette sul vocabolario. Insomma, quando si parla di semantica tutto si tiene, anche le mie magliette. Il che non è un motivo comunque per farmele pagare quasi 50 euro, ma questo ovviamente è un altro discorso.